Oggi presentiamo il capitolo su ambiente e territorio dell'Osservatorio dell'Economia e del Lavoro che giunge nel 2024 alla 11ª edizione. Si tratta di un capitolo un po' diverso dagli altri perché appunto si tratta di parlare di indicatori che non sono direttamente economici come quelli legati appunto al consumo di suolo, alla qualità dell'aria, ma che impattano direttamente la vita delle cittadine e dei cittadini della nostra regione, così come quella dei lavoratori e delle lavoratrici. In particolare osserviamo quattro fenomeni. Il primo è quello lì della qualità dell'aria, che nel 2022, perché quello è il livello di aggiornamento che abbiamo quest'anno, sono nettamente preoccupanti perché anche se rispettano i limiti di legge, come sottolinea la regione Emilia-Romagna, i livelli di PM10 e PM2.5, quindi quelli inquinanti che noi respiriamo e che tanti problemi causano alle nostre vie respiratorie, sono ben al di sopra di quelle dei limiti, delle soglie consigliate dall'OMS. Abbiamo cioè dei limiti di legge che sono molto ottimistici, sono quelli vecchi dell'OMS. Nel 2021 li ha aggiornati, le PM2.5 sono tre volte quelli del limite consigliato, individuato dall'OMS per come il limite oltre il quale il PM2.5 è appunto dannoso per l'organismo. Ma abbiamo anche altre questioni legate al clima. Il 2022 è stato un anno estremamente siccitoso, con un picco nella parte estiva, e questa cosa è sempre più importante anche per quei lavoratori e lavoratrici che lavorano all'aperto, agricoltura edilizia in primo luogo, ma è anche l'anno in cui quel picco costituisce il momento più grave della lunga siccità che dal 2021 si è protratta fino al maggio del 23, che sappiamo oggi appunto ricorre proprio l'anniversario dell'inizio di quegli eventi. Proprio oggi, nella prima fase, ci sono state le prime due vittime. Gli altri due indicatori sono quello del consumo di suolo, che è rilevante anche in relazione appunto agli eventi che sono successi appunto a maggio dell'anno scorso, perché contribuisce all'impermeabilizzazione del suolo. Va sottolineato che anche se in regione esiste dal 2017 una legge che dovrebbe limitarne il consumo, il suolo regionale continua ad essere sempre più coperto. Anche nel 2022 abbiamo uno 0,3 in più di copertura, che contribuisce quindi sia all'impermeabilizzazione del suolo, contribuisce anche al mancato assorbimento delle emissioni. Questo qua è molto rilevante perché la legge regionale prevede il saldo zero, mentre invece togliere un albero per metterne un altro non è la stessa cosa, la faccio molto semplice. Terzo punto, i rifiuti. Noi abbiamo un problema che è peculiare della regione, che è una produzione elevatissima. Abbiamo oltre 700 kg per persona in almeno tre province, e questa grossa quantità di rifiuti prodotta vanifica gli sforzi fatti in materia di differenziazione. Anche se pensiamo a una percentuale, quindi se fa il 70% di differenziata, che appunto è molto elevato, in Emilia Romagna tra l'altro migliora nel 2022 il dato, è andato al 74%, in realtà la quota di rifiuti indifferenziati fa sì che la regione diventa 12ª per minor quota prodotta di rifiuti indifferenziati per persona, mentre invece dovrebbe essere la quarta se guardiamo soltanto appunto il livello della differenziata. Su questo dato impattano tantissimo le cosiddette quote fluttuanti della popolazione, ovvero il turismo. Delle province in cui si differenzia meno o si fa più difficoltà a differenziare, a gestire, a contenere la produzione di rifiuti, sono quelle maggiormente esposte appunto ai flussi turistici. Quindi anche Bologna, immagino. Bologna e Rimini in primo luogo. Reggio Emilia, infatti, che è meno soggetta, meno esposta a questo fenomeno, riesce a contenere quest'anno un po' di più la produzione di rifiuti, anche se Reggio Emilia è la capolista in Italia da ormai oltre 5 anni.